Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali sulla tecnologia giù il lusso, su logistica e pagamenti digitali giù il retail. L'effetto Covid e le nuove abitudini dei consumatori si fanno sentire anche nell'annuale classifica dei 100 brand più potenti al mondo. Scopriremo tra pochissimo chi sale e chi scende quest'anno. Saranno i consumatori e i decisori del futuro, la generazione più studiata di sempre, soprattutto per la sua discontinuità con la precedente, quella dei millennials. Focus sui trend dedicato alla generazione Z e al marketing dell'imperfezione studiato su misura per loro. Senti, tu stai cambiando, io lo so. Mi successe esattamente la stessa cosa alla tua età. No, non la stessa cosa. Peter, questi sono gli anni in cui un ragazzo cambia e si trasforma nell'uomo che sarà per il resto della sua vita. Ma devi stare attento a quello che diventi. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Frase cult, entrata nell'immaginario collettivo, quella di Spider-Man, ci è sembrata la più adatta per introdurre il dominio della tecnologia nell'edizione 2020 di Best Global Brands. Lo studio annuale firmato dalla società di consulenza globale Interbrand, che classifica i 100 brand più potenti al mondo. Le prime 5 marche sono tutte tecnologiche, le prime 3 valgono da sole, pensate, il 30% del totale, le prime 10 il 50%. Al vertice si conferma Apple con un valore di oltre 300 miliardi di dollari, a seguire Amazon che nell'anno del lockdown e del relativo boom dell'e-commerce registra una crescita del 60% e sale di un gradino rispetto allo scorso anno. Bronzo per Microsoft che dopo 8 anni scalza dal podio Google. Seguono nei primi 10 Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mercedes, McDonald's e Disney. L'effetto Covid quest'anno spinge Instagram, YouTube e Zoom, che fa il suo ingresso in classifica in 100ª posizione. Continuano a crescere Netflix e Spotify e tutto il modello della subscription economy. Salgono logistica, quindi UPS, FedEx, DHL e i pagamenti digitali. PayPal, Visa, Mastercard. Perde posizioni in retail su tutti Zara ed H&M. In frenata il lusso, dove si posizionano gli unici 3 brand italiani in classifica, Gucci, Ferrari e Prada. Trovate la classifica completa sulla nostra pagina Facebook, noi l'abbiamo analizzata insieme a Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand, con cui abbiamo affrontato appunto anche il tema della responsabilità di questi brand, e non solo in termini ambientali e sociali, ma anche di condivisione del valore, una consapevolezza che una fetta sempre più ampia di consumatori ha e che questi brand faranno bene a maturare presto, senza zone grigie, voglio sottolineare, pena prima o poi l'esclusione dal mercato. Impossibile? Non facciamo l'errore di pensare che lo sia, anche se parliamo di colossi. Sicuramente quello che vediamo è il dominio della tecnologia, anche se oggi probabilmente è lecito dire che nessun brand può permettersi di non essere un brand tecnologico, però quello che vediamo è l'avvicendamento in cima alla classifica tra Microsoft e Google, con Microsoft che sopravanza Google. Sappiamo che Microsoft ha avuto una trasformazione di business incredibile negli ultimi anni, abbiamo letto della sua capitalizzazione di mercato ed è un brand che oggi è più rilevante di quanto non fosse 5-6 anni fa. Continua la corsa di Amazon, che ovviamente rappresenta una fetta del futuro, di come vivremo nel futuro, e non si ferma mai. E per la prima volta vediamo Samsung entrare nella top 5 al quinto posto, mentre invece in cima alla classifica Apple continua a rappresentare un brand che, diciamo, domina su tutti gli altri attraverso una unione di tecnologia, desiderabilità e filosofia di design. Credo che una storia molto interessante sia quella di Tesla, che entra in classifica, o meglio rientra in classifica quest'anno, ed è interessante perché mentre il settore automotive evidentemente ha sofferto significativamente nei mesi di lockdown, Tesla ha di fatto creato una liquidità, proprio un'attrazione di capitale straordinaria attraverso il proprio brand, quindi con questa visione molto chiara verso appunto l'elettrico e nel rendere desiderabile e diciamo efficace l'elettrico, è riuscita a catturare l'immaginazione non solo dei consumatori ma anche degli investitori, e quindi assorbendo questo capitale Tesla è uscita dalla crisi probabilmente più forte di prima, ed è una testimonianza di come un'azienda che di fatto produce circa il 4% di quello che produce una Toyota, oggi capitalizza più della stessa Toyota. L'effetto Covid, oltre alla tecnologia, l'e-commerce, Amazon, la crescita che abbiamo già citato, quali sono le dinamiche innestate dall'emergenza? Credo che la dinamica, che forse non è evidente in specifici brand solamente, ma è un fil rouge che attraversa tutti i top riser, il fatto che mai come in questo momento sentiamo il bisogno di leadership, in un momento in cui le istituzioni non sanno cosa fare o a volte fanno la cosa sbagliata, ci affidiamo ai brand per dare significato alle nostre scelte. E quindi abbiamo visto nei mesi del Covid brand che hanno fatto più che semplicemente servire i propri clienti. E tutto questo mostra come le nostre aspettative nei confronti dei brand non siano semplicemente da consumatori, ma di fatto da cittadini. Ci aspettiamo che i brand abbiano a cuore il nostro interesse, diventino parte del nostro tessuto sociale e riempiano il vuoto di leadership che purtroppo oggi vediamo in diverse parti del mondo e diversi ambiti della nostra vita. In questo, essendo i primi 10 quasi tutti tecnologici, si impone una riflessione per questa tipologia di aziende? Ne sono assolutamente persuaso, credo che sia assolutamente così, perché se noi consideriamo ad esempio il valore dei 100 brand in questa classifica cumulativo, stiamo parlando di 2,3 trilioni di dollari, e quindi i brand oggi non sono semplicemente il riflesso di una scelta individuale o semplicemente attengono all'ambito del commercio, ma sono una forza che non è più microeconomica ma è macroeconomica, e sono delle fonti di influenza e di cambiamento molto più di quanto non possono essere ad esempio delle istituzioni nazionali o anche internazionali. E quindi ambiti che un tempo non erano di nostro interesse come consumatori, come per esempio quanto paghi i tuoi dipendenti, quanto paghi di tasse, dove paghi le tasse, oggi sono al centro delle conversazioni e soprattutto del giudizio dei consumatori. Una riflessione assolutamente importante di questi tempi, su cui si giocherà anche la competizione, il mercato. Senz'altro, stiamo vedendo e testimoniando il cambiamento da quella che è l'economia, diciamo, dei settori a un'economia fatta di arene competitive, per cui i brand che sono al vertice di questa classifica e che stanno scalando velocemente questa classifica ormai di fatto non appartengono più a un settore, ma al loro interno hanno una moltitudine di settori, e quindi quello che diciamo è il denominatore comune di un brand non è oggi quello che fa, ma perché lo fa e come lo fa. Gli esempi, diciamo, che possono venire in mente sono ovviamente Amazon, difficilmente collocabili in un settore, perché potrebbe essere intrattenimento, produzione, retail e così via, ma la stessa Disney. Quindi oggi i grandi brand travalicano i confini dei settori, riuniscono al loro interno dei settori, e nella migliore delle ipotesi quello che hanno al loro cuore non è quello che sanno fare, ma il perché lo fanno, la convinzione, il cosiddetto purpose, e la visione con cui lo fanno. Ed è quella che oggi determina molto spesso la scelta o la non scelta di un brand, soprattutto nelle giovani generazioni. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte parliamo di Generazione Z e marketing dell'imperfezione. Essere e avere. It's okay not to feel okay. Focus sui trend.

chiarendo che lui è in qualche modo un effetto collaterale della spagnola, perché sua mamma nel 1917 aveva avuto la spagnola e lui aveva rischiato di non nascere. Ecco, Edgar Morin è un pensatore straordinario e propone, le chiama le 15 lezioni del coronavirus, e sono i tanti temi che abbiamo affrontato anche insieme, Maria Luisa, perché comunque parla di responsabilità, parla di Europa, parla di uguaglianza. La cosa molto interessante è che alla fine del libro propone anche 4 principi speranza, no? Come lui li definisce. Sono delle indicazioni interessanti anche per le aziende, perché ad esempio parla di questo grande tema, diciamo, della reciprocità inteso anche come salvezza, come salute, cita Hölderlin, no? E quindi l'idea che la salvezza cresce dove cresce anche il pericolo. Quindi sono delle indicazioni psicosociologiche molto importanti per affrontare un prossimo futuro che sarà ancora molto complicato. Morin è il filosofo della complessità, però è noto, apprezzato in tutto il mondo anche per la sua capacità di enunciare pensieri complessi con una semplicità unica, una grandissima capacità divulgativa. Ne abbiamo bisogno in questa emergenza in cui sembra quasi di essere sopraffatti a volte dai numeri, dalle indicazioni, dalle norme, dai divieti. Sì, e su questo mi piace citare un passaggio dedicato all'incertezza che lui però riesce anche a ribaltare, nel senso che dice: l'incertezza contiene anche l'improbabile, l'improbabilità, che in molti casi è anche positiva, e fa l'esempio dell'assedio di Stalingrado, di quando sembrava che i nazisti avessero conquistato Stalingrado e quindi avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, e dice in realtà la resistenza poi di Stalingrado ha ribaltato in modo improbabile le sorti del mondo. Ecco, è un'indicazione anche proprio che non è solo la resilienza di cui giustamente oggi si parla, ma è la capacità di progettare in un momento di incertezza, ma di lasciare anche spazio all'utopia e a possibile mondo migliore. E lui tra l'altro conclude dicendo: attenzione, lavoriamo sul mondo migliore e mai sul migliore dei mondi, perché il migliore dei mondi ha sempre portato invece al disastro, no? Questa idea di perfezione, di armonia. E quindi è davvero un libro anche emozionante da leggere in questo momento. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.